In questo martedì 31 gennaio fa freddo, eh? Ah, grande notizione, tutti a leggere le notizie tra gli articoli più letti anche online per scoprire che in inverno fa freddo. Gran notizione. Fa molto freddo, questo sì, fa un po' più freddo degli anni scorsi. I titoli dei vari quotidiani, il Sole 24 Ore, accordo UE sui vincoli di bilancio e l'Europa in primo piano un po' ovunque, anche per il Corriere della Sera, intesa a 25 sul nuovo patto UE. La Stampa, Europa sia il patto sui bilanci, lo stesso titolo identico sul Messaggero. Repubblica invece, evasione, ecco il piano di primavera, parla il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Befera. Poi scelte diverse per Il Giornale, in piazza per Silvio contro le toghe politicizzate. Il Fatto Quotidiano, bene Italia i deputati, male gli arbitrati milionari. Per l'Unità, sì al rating, no mafia, è una campagna lanciata sull'Unità dal vicepresidente di Confindustria che sta andando avanti, poi la vedremo. Libero, tassano anche i malati, piano governo regioni. Questa è una notizia su una presunta nuova tassa che starebbe studiando il governo e la notizia la dà Libero. Vedremo anche questa se c'è tempo. Intanto, da cosa voglio partire? Due notizie di, metto mille virgolette, presunte truffe, perché bisogna essere garantisti. La prima coinvolge un senatore del Partito Democratico, ex della Margherita. I 13 milioni della Margherita finiti nelle società del tesoriere. È una vicenda che riguarda Luigi Lusi, 50 anni, senatore avvocato. Leggo l'articolo dal Corriere della Sera, vi dedica due pagine, ma anche a Repubblica una pagina intera con Carlo Bonini. Così l'ex tesoriere della Margherita ha sottratto 13 milioni di euro al partito. È un'inchiesta nei confronti appunto del senatore Lusi, ex tesoriere del partito della Margherita, accusato di aver dirottato 13 milioni di euro su società italiane ed estere. Li avrebbe gestiti come se fossero suoi. Per questo è indagato per appropriazione indebita dalla Procura di Roma, un'inchiesta non ancora terminata. Accertamenti che nascono da un'operazione sospetta di Banca Italia, fa sapere il Corriere della Sera. Infatti sono partiti 90 bonifici in poco più di 2 anni e mezzo. Si chiede alla Guardia di Finanza di scoprire le causali, i destinatari dei soldi, e si scopre che sono tutti inviati alla società TTT SRL, una società riconducibile a Lusi. Con questi soldi, secondo l'accusa, si sarebbe comprato uno splendido appartamento in via Monserrato 24 a Roma, pagandolo 1.900.000 euro. Società anche canadesi, con soldi in Canada. Questa ovviamente è l'accusa. Tra l'altro Fiorenza Sarzanini scrive l'articolo e poi Monica Guerzoni raggiunge l'onorevole senatore Lusi, identificato come tesoriere modello. Le carte, di quale carte parla? Questo è l'esordio di Lusi. Dirò solo quello che qualunque tesoriere di un partito deve dire se succede qualcosa, cioè che mi assumo ogni responsabilità, non ho altro da dichiarare, sono responsabile di tutto e di tutti come tutti i tesorieri. Insomma, una brutta vicenda, racconta Carlo Bonini anche su Repubblica. Indagato Lusi, bonifici a se stesso per comprare immobili di prestigio, questa è l'accusa, aver dirottato soldi del partito, che poi sono soldi recuperati con i fondi pubblici, col finanziamento pubblico ai partiti, o meglio rimborsi elettorali, quindi sono soldi nostri. Poi alla fin fine l'accusa è di averli usati per fini personali. Una seconda invece presunta truffa riguarda un altro senatore, questa volta del Popolo della Libertà, Giuseppe Ciarrapico, racconta Repubblica a pagina sempre 21 sotto l'articolo che riguarda Lusi. A processo il senatore Ciarrapico, una mega truffa sui fondi per l'editoria. L'accusa: aveva creato 2 cooperative intestate a prestanome, 2 ottantenni, con cui riceveva indebitamente i contributi per l'editoria dalla Presidenza del Consiglio, una furbata da 30 milioni di euro che ha causato all'erario un danno in realtà da 45 milioni. Secondo l'accusa, Il senatore avrebbe costruito due cooperative editoriali per ricorrere ai fondi, intestate a due prestanome ultra ottantenni. Per il pubblico ministero non ci sono dubbi, entrambe le società sono riconducibili a lui e dunque il risultato, le due società hanno permesso, secondo l'accusa, di incassare un doppio fondo, il doppio di quanto spettava. Non solo, Ciarrapico avrebbe anche operato assieme a propri familiari sui conti correnti nei quali erano stati versati i contributi per l'editoria. A processo il senatore Ciarrapico, mega truffa sui fondi per l'editoria. E a proposito di presunte truffe, è ritornato a processo, riprende il processo nei confronti di quello che era stato definito il Madoff dei Parioli. Ve lo ricordate? Gianfranco Lande, truffatore dei VIP, detto Madoff dei Parioli. Ieri è andato a processo, ieri l'udienza, e se ne sono scoperte. Beh, ieri c'è stata la testimonianza di David Riondino, il comico. Portai risparmi all'estero, mi hanno truffato due volte, Alessia Meloni sulla Stampa, pagina 20. David Riondino, teste al processo contro il Madoff dei Parioli, mi fece pagare per aderire allo scudo fiscale, non ho visto più nulla, tanto che Libero ironizza, cioè ha fatto così praticamente David Riondino. Perfetto comico di sinistra, questa è l'accusa di Libero, evade. Usa lo scudo fiscale, specula in borsa e si fa truffare. Questa poi è la conclusione. 450.000 euro. Anche se a me ha colpito di più, su Repubblica, pagina 20, un'altra testimonianza, un altro teste ieri si è presentato in questo processo. Si tratta di un frate, Francesco Ricci, 59 anni, ha investito 1.700.000 euro presi da un conto dello IOR. E dice questo sacerdote, gli ho dati o gli ho affidati Gianfranco Lande, è un frate domenicano, è l'avvocato delle santificazioni, cioè colui che istruisce le pratiche, avvia i procedimenti per la beatificazione dei santi, si è presentato col saio, il crocifisso, in aula, ha raccontato di 1.700.000 euro finiti dallo IOR nelle tasche di Lande, ma il sacerdote non ha tirato in ballo il Vaticano, ha detto al contrario che i soldi erano suoi, frutto della sua attività. Frutto della sua attività. 1.700.000 euro. Ovvero, che attività? Gli anticipi di chi promuoveva le istruttorie per le beatificazioni e le santificazioni. 1.700.000 euro di anticipi per promuovere le istruttorie per le beatificazioni e le santificazioni. Spariti così. 24 mattino. Allora, alle 7:35 minuti, come detto, molti quotidiani, la maggior parte dei quotidiani apre su quello che è successo in Europa. Già, ma cosa è successo in Europa? Vi invito a leggere Il Sole 24 Ore con l'editoriale di Carlo Bastasin oggi, se volete capire qualcosa di più. L'accordo ieri a Bruxelles è stato sul nuovo patto di bilancio europeo, quello che rafforza la disciplina fiscale imponendo regole di rigore comuni sui conti, sulla crescita e l'occupazione. È un primo passo verso l'ipotizzata Unione Fiscale Europea. Primo passo anche perché in realtà è un primo passo che non hanno fatto tutti. 25 paesi l'hanno firmato dell'Unione Europea, due no, uno era la Gran Bretagna che era abbastanza prevista. Visto che era fuori dall'inizio, l'altra è la Repubblica Ceca che non ha firmato, non ha sottoscritto l'accordo. Invece l'intesa sul nuovo fondo salva stati è stata firmata da tutti e 27 gli stati membri. Dicevo, Carlo Bastasin in prima pagina del Sole 24 Ore, un primo passo che ci rafforza, questo è il titolo dell'editoriale, il nuovo trattato fiscale varato ieri al Consiglio europeo contiene le regole restrittive destinate a pesare sull'Italia più che su qualunque altro paese, ma senza i temuti fanatismi sanzionatori. Come era già previsto negli accordi di marzo 2011, Roma dovrà tagliare ogni anno un ventesimo l'alto debito pubblico eccedente il 60% del PIL. Le attenuazioni della regola sono un po' nascoste nel richiamo a norme precedenti che, se ben interpretate, contemplano circostanze di deroga. Quella più sensata è indicata in un paragrafo dello stesso testo discusso ieri e si riferisce a recessioni gravi come quella in corso. Trattato che entrerà in vigore dal prossimo anno, per fortuna non da subito, Questo è il primo passo, e comunque tutte le decisioni che sono state prese in Europa sono state prese, sono dettagliate in articolo di Beda Romano a pagina 3 del Sole 24 Ore. Dicevo, lo scetticismo, c'è chi in maniera esplicita dice è un trattato nuovo che nasce già inutile. Il Manifesto, per esempio, titola in prima pagina Cavoletti di Bruxelles, accolto da uno sciopero generale che paralizza il Belgio, il vertice europeo discute di ripresa e occupazione, vicina l'intesa sul patto di bilancio, ma la crisi non accenna a migliorare. Tra l'altro c'è stato un curioso, non si può dire siparietto perché siparietto a distanza, ma è interessante che il presidente della Commissione europea, José Barroso, ha citato un caso che coinvolge l'IKEA e la città di Pisa, o comunque la Toscana, come esempio negativo di come si rischia di compromettere l'intera economia europea. Perché Barroso ha fatto notare che l'IKEA ha dovuto aspettare 6 anni un permesso per aprire un punto vendita in provincia di Pisa, per l'appunto. Il siparietto è stato che a distanza il presidente della regione Toscana Rossi ha detto: non consento a nessuno di denigrare la Toscana, neanche al presidente Barroso. Insomma, c'è stata questa diatriba a distanza, questo duello verbale a distanza. Ieri raccontavamo la storia del salumificio Beretta, 4 anni raccontava ieri il Corriere della Sera per cercare di aprire uno stabilimento a Rovagnate e ancora non se ne vede la luce. Ora Barroso ha citato i 6 anni di permesso chiesti e attesi dall'IKEA per ottenere i permessi per aprire un centro, un punto vendita nel Pisano. Vabbè, invece noi ci concentreremo sulla vicenda dei controlli fiscali. Insomma, questi controlli fiscali stanno facendo, no? Stanno spaccando l'opinione pubblica. Tra chi prevede e predice è giusto così, bisogna andare avanti, bisogna aumentare, chi per esempio cita i dati che sono stati riportati dalla Guardia di Finanza e sono questi: sapete i controlli a Milano che cosa hanno prodotto? Incassi lievitati del 44%, c'è chi ironizza, piovono scontrini, c'è chi ironizza, vedete come fa bene la Guardia di Finanza al commercio, più 44%, i risultati del blitz di sabato, i giornali utilizzano ancora questa parola, sebbene ai rappresentanti dei commercianti non piace questa idea del blitz come se fossero dei criminali. In 33 locali scovati 116 lavoratori in nero. Questo è un primo bilancio dell'Agenzia delle Entrate. C'è chi dice ora vadano al sud. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, fa una lunga intervista con il vice direttore di Repubblica Massimo Giannini, all'apertura di prima pagina. Evasione, ecco il piano di primavera, con Befera che dice i concetti che sta ribadendo da un po' di tempo. La lotta all'evasione è un risultato eccellente, avevamo recuperato 9 miliardi nel 2009 e 10 miliardi e mezzo nel 2010, ora abbiamo già recuperato 11,6 miliardi nello stesso periodo del 2011, un'evasione che è una piaga sociale ed economica, dice Befera, che poi fa anche alcuni nomi di politici tra un attimo. Intanto dice: continuano a uscire i capitali, ci sono banche svizzere che hanno cominciato ad affittare le cassette di sicurezza dei grandi alberghi perché non sono in grado di esaudire l'abnorme quantità di richieste che hanno dai clienti italiani. E ancora dice Befera: vuole dei nomi del partito degli evasori, ne cito due, Bossi a Pontida la scorsa estate, se lo ricorda, e poi cito Alberto Goffi dell'UDC, avvocato con studio a Torino, che sulla propaganda anti-Equitalia ha costruito la sua campagna elettorale. Oppure un altro esempio, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, noto evasore, così lo definisce Befera, che ancora domenica a Cordenons ha sparato a zero contro di noi, e poi diversi personaggi dello spettacolo che ci attaccano in teatro e in TV, gente che guarda caso ha conti in sospeso con l'amministrazione finanziaria. Insomma, un Befera d'attacco che dice ora primavera ecco il nuovo piano. Il piano sarà quello dei conti correnti. Ora, ecco, controlleremo finalmente i saldi dei conti correnti. Se all'inizio dell'anno un contribuente sospetta un deposito da 1 milione di euro che a fine anno diventa di 1.000 euro, noi possiamo chiedergli che fine hanno fatto questi soldi. Allora, vi piace questa è polizia fiscale, oppure è legittimo controllo, anche invasivo, magari andando a vedere i saldi, andando a vedere i vostri conti correnti, andando a vedere appunto, venendovi a chiedere dove e come avete speso i vostri soldi. È tutto legittimo, vi piace? E ora il fisco sbarca anche al sud, scrive il giornale a pagina 4, come alcuni esponenti hanno chiesto anche ieri qui ai nostri microfoni, Roberto Formigoni, ora al sud, pare che siano partiti, Beppi Castellaneta racconta sul giornale, i primi controlli a Taranto dalla Guardia di Finanza. Staremo a vedere se ci sarà anche questa estensione di controlli al sud. Noi ne parleremo alle 8.30, avremo Matteo Salvini della Lega e poi avremo l'ex procuratore di Treviso Antonio Foiadelli, ex procuratore capo, che è della linea bisogna controllare e bisogna anche fare quella che viene definita da alcuni la gogna mediatica, cioè pubblicare i nomi, come hanno fatto in Grecia, di chi froda il fisco. Sta di fatto che un altro tema sul quale c'è una novità importante annunciata dai giornali è la lotta alla corruzione. L'idea dell'anticorruzione è quella che è stata messa in piedi con una commissione che ha lanciato questa proposta, l'ha lanciata al ministro per la pubblica amministrazione, Patroni Griffi, che era qui ai nostri microfoni ieri, vale a dire quella di dare un premio in denaro a chiunque segnala all'autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti, condotte illecite che cagionano danno erariale per lo Stato. Dunque, dare un premio in denaro non inferiore al 15% e non superiore al 30% della somma recuperata all'erario. È l'idea anticorruzione, pagina 13 del Corriere della Sera, un premio in denaro a chi denuncia i casi. Beh, anche questa è una vicenda molto interessante, anche Repubblica la titola così, un premio in denaro per chi denuncia i colleghi corrotti. E anche l'unità contro la corruzione, l'impiegato controllore, è questo che si evince nella relazione della commissione voluta dal ministro Patroni Griffi, prevenzione ma anche repressione e pagare in denaro chi denuncia. Si chiamano in America whistleblowers, cioè quelli fischiatori, quelli che fischiano, cioè quelli che lanciano un allarme, no, col fischietto. Sono coloro che decidono di denunciare casi di corruzione di cui vengono a conoscenza, e per questo la proposta è di premiarli con una somma tra il 15 e il 30% di quello che lo Stato riesce a recuperare grazie a questa segnalazione. Anche qui, giusta segnalazione, delazione, fare la spia, come si direbbe, come si diceva quando si giocava, no, a nascondino, alle elementari. Anche questo è un tema molto, molto interessante. E la casta che fa? La casta pare che si sia tagliata una parte dello stipendio subito a gennaio di 700 euro netti. Ma attenzione, perché c'è il trucco. Allora, la casta si è tagliata un po' di stipendio? Così pare. Cioè pare, di fatto è così. Ma attenzione, perché c'è appunto il trucchetto. Vediamo se riesco a spiegarvelo in poche parole. Beh, i titoli che troverete sui giornali sono questi. I deputati rinunciano a 700 euro. Pagina 13 del Sole 24 Ore. Già però il rinunciano è tra virgolette. Uno dice come? Perché tra virgolette? Beh, perché è molto chiaro, in maniera molto semplice è questo, è stato deciso dalla presidenza della Camera, l'ufficio di presidenza, e oggi l'ufficio di presidenza del Senato farà presumibilmente, prenderà la stessa decisione, di appunto rinunciare a 700 euro netti già dal mese di gennaio, questo mese della paga di parlamentare. Però, attenzione, in realtà non è proprio un taglio. Diciamo che siccome i parlamentari hanno deciso di passare al sistema contributivo, come per tutti, il sistema previdenziale delle pensioni, questo passaggio epocale avrebbe comportato minori trattenute sullo stipendio di gennaio, e quindi lo stipendio sarebbe aumentato a questo gennaio paradossalmente di 1.300 euro lordi. Che cosa hanno fatto i parlamentari? Probabilmente di fronte a questo aumento di 1.300 euro lordi hanno detto qui veramente rischiamo i forconi, e allora hanno rinunciato a questo aumento di 1.300 euro lordi, vale a dire 700 euro netti. Quindi, insomma, si tagliano 700 euro. Dovevano prenderne 700 euro in più e hanno deciso forse è meglio di rinunciare. E quindi, infatti, sulla prima pagina del Sole 24 Ore è spiegata bene: tagli di aumenti, non tagli. La Camera ha annunciato di voler ridurre l'indennità dei 630 deputati. Sarà tagliato però l'aumento che sarebbe derivato dal passaggio dal sistema vitalizio al contributivo. E dunque, voglio dire, sì, si sono tagliati 700 euro che altrimenti avrebbero preso in più. Quindi il risultato è che la paga rimane la stessa. Anche se, certo, è un buon segnale, tanto che in Prima di Avvenire il direttore Marco Tarquinio firma l'editoriale «Bene così». L'avevamo detto, certo ci sarà chi non si accontenterà delle nuove sforbiciate, chi rinfaccerà ai parlamentari le resistenze e le giravolte degli ultimi mesi sulla questione dei vitalizi, ma comunque noi diciamo bene così, avanti così. Questo è il direttore di Avvenire, Marco Tarquinio. In realtà alcuni giornali sono più duri. La casta si taglia 700 euro, ma per finta, così. Libero, oppure neutralizzato l'aumento da 1.300 euro lordi, troverete, o 1.300 sono lordo, 700 netti, scattava abolendo i vitalizi, ora andrà in un fondo. Poi c'è anche questa cosa: perché viene messo in un fondo? E qui è spettacolare, questo taglio da 700 euro viene messo in un fondo per eventuali ricorsi dei parlamentari contro questi tagli. Avete capito? Per eventuali ricorsi dei parlamentari. A proposito di ricorsi, segnatevi questa data. Noi ce ne siamo già occupati ogni giorno, guardate che cerchiamo di trovare deputati come l'onorevole Roberto Rosso, che almeno ci ha messo la faccia, è venuto qui qualche giorno fa e ha detto «Sì, io ho fatto ricorso contro la decisione di spostare da 50 a 60 anni l'età per prendere il vitalizio». Ma ci sono 22 deputati che hanno fatto ricorso, i nomi sono blindati, ce li ha nella scrivania l'onorevole Giuseppe Consolo, che presiede l'organismo che dovrà decidere, che il 1 febbraio, e quindi giovedì, o forse domani, no, il 2 febbraio, giovedì 2 febbraio, forse dirà questi 22 nomi. Oggi è intervistato da Carlo Tecce a pagina 3 del Fatto Quotidiano, ci sono ex ministri tra gli ultra del vitalizio. Sentite Consolo, rappresento il presidente del Consiglio di giurisdizione, aspetto con ansia giovedì 2 febbraio, credo per rivelare i nomi dei deputati. Sento il dovere di custodire un segreto inviolabile per un breve periodo di tempo. Ci sono quindi, sono 15 giorni che resisto per rinviare un casino annunciato. Capirò i cittadini che si incazzeranno, ha detto Consolo, quando dirò i nomi. Ci sono ex ministri, chiede Tecce, per cortesia, mi può fare una domanda di riserva. A parte ex ministri, che c'è? Quasi tutti, direi. Ho controllato con attenzione, però zero di Future Libertà. Vabbè, Consolo qui spende una parola per il suo partito, lui è di Future Libertà. Non voglio nemmeno immaginare, dice l'onorevole Consolo, il putiferio che scoppierà giovedì. Capisco la preoccupazione di Fini o del governo, perché qui rischiamo l'indignazione popolare. Se non immagina lui il putiferio, immaginatevi voi che state andando comodamente nelle vostre macchine, spero, a lavorare. Se l'onorevole Consolo dice immagino il putiferio quando giovedì forse diremo i nomi, chissà voi, no? Il putiferio che vi immaginate. Vabbè, devo dare due segnalazioni. Rapidamente, se ce la facciamo, l'Unità fa la prima pagina, no mafia, sì al rating, riprende la proposta lanciata proprio sull'Unità qualche giorno fa dal presidente di Confindustria Sicilia, Antonello Montante, sul rating antimafia, cioè adottare, dare diciamo una tripla A, un valore positivo, un rating ottimo per tutte quelle aziende che adottano i codici antimafia. Una proposta che si sta facendo largo, pare, anche a livello parlamentare. Oggi c'è anche intervistata la vicepresidente di Confindustria con delega al Mezzogiorno, Cristiana Coppola, intervistata appunto dall'Unità, pagina 3, applaude ovviamente a questa iniziativa e dice aiuti alle imprese antimafia. Mentre la seconda segnalazione che voglio dare è questa che avevo citato in prima pagina di Libero, di un rischio di una nuova tassa, così dice almeno Libero, tassano anche i malati, questo è il titolo di apertura di Libero, a pagina 2, Antonio Castro, arriva forse la tassa sui pannoloni, cateteri, sacche per urine, ossigeno, prodotti per diabetici e intolleranti al glutine, la fantasia dei tecnici. I direttori generali degli assessorati regionali della sanità si sono incontrati per elaborare una proposta ed ecco Libero che propone questo documento che prevede forme specifiche di contribuzione, tradotto ticket sanitari, per erogare protesi, ausili per diabetici, alimenti per celiaci. Ovvero tutti questi strumenti per persone bisognose, tanto che Libero accusa vogliono mettere le tasse sui pannoloni e l'ossigeno. Questa è una proposta del piano del governo e delle regioni. Giusto per farvi sorridere, abbiamo parlato tanto di soldi, chiudo. Allora, vi siete scandalizzati? Celentano c'è a Sanremo, siete scandalizzati? Qualche parlamentare lo è e ha chiesto lumi in Parlamento per la paga, la paga, da quanto 300.000 euro a puntata fino a un massimo di 750.000 euro. 300.000 euro a puntata fino a un massimo di 750.000 euro. La direttore generale della RAI, lei, ha detto è il mercato, aggiungo io, è il mercato, bellezza, 750.000 euro. Ma ha detto Celentano li darò in beneficenza, ma chissà. We'll be right back.